Perché destinare l'8 per mille alla Chiesa Cattolica? Chiede in televisione una voce suadente su uno sfondo primaverile di cieli azzurri e nuvole bianche. Già, perché? Me lo chiedo anch'io da 6 anni, da quando, oltre ad avere il dubbio piacere di contribuire a uno dei sistemi fiscali più esosi e inefficienti del mondo, devo anche decidere se destinare parte delle mie sudatissime tasse a qualche organizzazione ecclesiastica, con particolare riguardo a quella Chiesa Cattolica che nel nostro paese, dal punto di vista ecclesiale, fa da sempre la parte del leone. Certo, posso destinare quella somma allo Stato, a scopi sociali e umanitari, se non sbaglio. Ma vi assicuro che la cosa non mi consola, e sarò incontentabile, lo so, ma allo Stato credo ancora meno che alla Chiesa, e sulla sua capacità di individuare un obiettivo sociale e umanitario che anch'io possa condividere nutro parecchi igienici dubbi. E quanto alle chiese evangeliche e agli altri soggetti religiosi a cui però da qualche tempo posso optare, non ho niente contro di loro, naturalmente, ma non vedo neanche perché per esercitare le loro finalità assistenziali e benefiche debbano servirsi del contributo di qualcuno che non si annovera tra i loro fedeli. È un bel pasticcio, è un bel pasticcio. Anche perché, naturalmente, so che se anche non scegliessi nessuno, lo Stato e la Chiesa si spartirebbero allegramente i miei soldi a mio scorno e dispetto, secondo la proporzione di quelli che invece hanno scelto. È un meccanismo infernale. Non so chi lo abbia inventato, ma è poco ma sicuro che nell'arte di gabbare il cittadino, di calpestarne la libertà di pensiero e di imporgli, oltre al danno, le beffe, doveva essere un genio. Modesta consolazione, da qualche tempo posso godere alla radio e in televisione degli spot delle chiese. Non scherzo, guardate, è proprio una consolazione sul serio. Io sono sempre stato convinto che le chiese, in quasi tutte le loro varianti, andassero considerate, grazie agli sforzi dei missionari e dei predicatori, precursori delle moderne tecniche pubblicitarie, ma non avrei mai pensato di vederle ricorrere all'opera di professionisti in materia. Con ingenuità tutta laica, avevo sempre creduto che considerassero il loro messaggio superiore a quelli volti a incrementare il consumo di formaggini e detersivi, invece no. Eccole lì, sono tutte lì a cantare come sirene punteggiando di messaggi allettanti sui media al nostro omaggio fiscale. E con che argomenti? Se per avere la tua anima la Chiesa ti minaccia le pene dell'inferno, quando si tratta di mettere le mani sul tuo portafoglio sono tutte molto più garbate. Si appellano alla ragione, evitano come la peste qualsiasi sottolineatura di tipo religioso. Non sono tutti espliciti come i valdesi che specificano e ribadiscono come non una lira andrà comunque ad attività di culto per cui il contributore tipo sceglie la loro chiesa proprio perché lui non è valdese. E in sede giornalistica ho trovato persino lo slogan do l'otto per mille alla chiesa valdese perché non credo, con il perché non credo bello in grande. Ma poco ci manca. Gli avventisti del settimo giorno, che sono fedeli inserzionisti della nostra radio, avrete notato, hanno cura di elencare una quantità di disagi perfettamente terreni cui si propongono col nostro aiuto di mettere fine. Introducono degli uccellini cinguettanti per far meditare sulla solitudine degli anziani. Evocano la prospettiva di catastrofi e carestie per perorare la causa dello sviluppo nel terzo mondo. Suscitano lo spettro dell'usura in nome del credito solidale. E persino la Chiesa Cattolica, persino la Chiesa Cattolica, che non nasconde l'intenzione di utilizzare almeno parte degli introiti per finanziare le sue attività religiose, precisa in televisione che il primo motivo per scegliere Roma è che essa porta ovunque aiuto e conforto, e solo se ne avanza destinerà qualcosa anche alle sue necessità organizzative. Insomma, è un trionfo dello spirito laico e della logica della carità fine a se stessa che un vecchio miscredente per mio non può che approvare di tutto cuore. E forse a pensarci bene, questo punto di vista è addirittura limitativo. Forse il problema non riguarda neanche le argomentazioni adottate, è intrinseco alla logica di quel tipo di messaggi. Sappiamo tutti che il mezzo non è mai neutrale rispetto al messaggio, no? Ma lo impronta inesorabilmente di sé. E se per ipotesi la campagna in questione, o altre campagne che questa o quella chiesa volessero organizzare a scopo di proselitismo, utilizzassero gli argomenti più vieti dei loro catechismi tradizionali, se per dirne una le organizzazioni musulmane assumessero Valeria Marini e Alba Barietti per fare la parte delle Uri nel paradiso di Maometto, o quelle cristiane commissionassero degli spot di massa ambientati tra le fiamme dell'inferno, con i demoni che inforcano i peccatori come nelle malebolge di Dante, o ambientate in cielo con un tripudio di angeli e santi. Uno del genere l'avevo visto, a dire il vero, ma poi mi hanno spiegato che era reclam di una marca di caffè. Se succedesse tutto questo e se a questo tipo di immagini persuasorie si ricorresse, beh, i messaggi trasmessi da un mezzo laico e commerciale come la televisione sarebbero non cessanti, altrettanto laici e commerciali, negherebbero la visione del mondo dei loro committenti e accelererebbero il processo di laicizzazione della società. Ed è appunto nella speranza di trovarci tutti di fronte alle prime manifestazioni di un processo di lunga durata che trovo un certo conforto alla prospettiva di pagare l'otto per mille. Padre nostro che sei nei cieli, liberaci dal male, da questa rumba senza fiato che fa di ogni lacrima un carnevale. Liberaci dalla luna che ci guarda e sembra un ladro, dall'orizzonte alla finestra che a guardarlo ci sembra.